Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Mi scuso per il riferimento personale, ma ha una sua funzione. Qualche settimana fa mi hanno chiamato dalla Ferrari per chiedermi di scrivere un articolo per il loro magazine, qualcosa riguardo l'impegno della Ferrari per l'ambiente. Insomma, quando ti chiama la Ferrari, soprattutto se sei italiano, ti fa piacere. Però l'ultima cosa che ti viene in mente è di associarla alla lotta al cambiamento climatico. Insomma, una Ferrari non è il mezzo con cui, se ci vai al lavoro tutti i giorni, fai un favore al pianeta. Poi però mi sono detto che neanche lanciare sonde per esplorare altri pianeti è un modo di fare un favore all'ambiente, però è un modo incredibile per fare avanzare il progresso. E con le dovute proporzioni, la Ferrari fa qualcosa di simile. È un po', diciamo così, la NASA dell'industria automobilistica. La domanda è se il suo contributo può davvero essere in direzione di una maggiore sostenibilità. Beh, insomma, intanto entrandoci, lo stabilimento della Ferrari è invaso da alberi, sembra più che altro un complesso residenziale. Anche all'interno delle officine meccaniche, dove si assemblano le Ferrari, ci sono alberi e isole verdi un po' dappertutto, e il livello di pulizia ricorda davvero quello delle camere bianche dove si realizzano proprio le sonde spaziali. Ma al di là di questo, quali sono i numeri della Ferrari se parliamo per esempio di emissioni oppure di efficienza energetica? Ebbene, ho incontrato Vincenzo Regazzoni, che è direttore industriale e responsabile della tecnologia e delle infrastrutture della Ferrari, e gli ho chiesto che cosa hanno fatto finora e soprattutto come è nata questa idea, insomma chi gliel'ha fatto fare. Sentiamo com'è andata. Ma ce l'ha fatto fare la nostra voglia di migliorarci, ma soprattutto un progetto che è stato lanciato da un'intuizione del presidente, che nell'anno 2000 ha fatto partire questa attività che lui ha voluto chiamare Formula Uomo, che prevedeva il rinnovamento di tutti quelli che erano gli ambienti produttivi, gli ambienti, le officine in cui vengono costruite le nostre vetture. E nel far questo non si è lasciato sfuggire l'occasione per realizzare building, officine, fabbricati che fossero veramente in linea con quello che era il rispetto dell'ambiente, quindi architettura biodinamica, particolare attenzione alle emissioni in atmosfera, sistemi di monitoraggio e supervisione del consumo delle energie e soprattutto interventi che ponessero la Ferrari in condizione di essere autosufficiente rispetto a quello che era la produzione di energia elettrica. Qual è il rapporto che c'è fra la qualità dell'ambiente di lavoro e, come dire, questa, chiamiamola, filosofia dell'efficienza energetica? C'è un rapporto prima di tutto? Ma secondo noi c'è un rapporto, senz'altro. È chiaro che al centro c'è sempre l'uomo e la postazione di lavoro dei nostri addetti. Cerchiamo di avere sempre illuminazione naturale, cerchiamo sempre di avere del verde all'interno delle nostre officine, con delle isole, con degli alberi nelle aree di relax. Una particolare attenzione al rumore, all'abbattimento del rumore. Per sintetizzare tutto con un numero, quali sono le vostre emissioni rispetto a quello che dovreste emettere? Ma noi oggi, rispetto alle 21.000 tonnellate annue che ci vengono concesse dalla direttiva europea, noi emettiamo circa 9.600 tonnellate di CO2 l'anno, con un abbattimento rispetto a quello che mettevamo nel 2008 conseguito di circa il 32%. Ma non vogliamo fermarci qui, vogliamo continuare a mantenere questo vantaggio rispetto ai limiti imposti dalla normativa. Cosa ne ricavate? Voglio dire, c'è un aspetto di comunicazione sicuramente legato a questo elemento di eccellenza in campo ambientale. Ci sono altri benefici, ci sono altre ricadute? Ma senz'altro l'aspetto più importante è quello di garantirci, diciamo, una migliore efficienza di tutti quelli che sono i nostri processi. In termini economici sicuramente abbiamo avuto una riduzione di circa il 15%, forse qualcosa in più rispetto a quello che spendevamo in ambito energetico. E, diciamo, un po' la chiave di volta è quella di considerare il fabbisogno energetico un po' come una performance da migliorare anno su anno, esattamente come facciamo con tutto il resto che viene fatto all'interno di questa azienda. Sul versante invece delle vetture, su cosa state lavorando? Perché anche qui parliamo di automobili che non nascono per essere morigerate. Non nascono per essere morigerate, però voglio ricordare che i motori più performanti sono senz'altro quelli che bruciano meglio, no? Abbiamo, tra virgolette, la presunzione di considerarci i migliori produttori di motori, e sappiamo che questo vuol dire avere il massimo rendimento energetico, e quindi questo vuol dire emettere il meno possibile. Le attività in questo campo sono veramente enormi, si sta lavorando tantissimo, da dotarci di meccanismi stop and start gestiti dall'elettronica, ma anche si lavora molto su concetti molto più tecnici, con la riduzione delle friction all'interno del motore. Cioè degli attriti per i non addetti ai lavori? Utilizzando l'elettronica per realizzare doppie iniezioni, doppie scintille nel ciclo di combustione, in modo tale da ottimizzare anche nei transitori e ai bassi regimi quelle che sono le emissioni che vengono dai nostri motori. E poi c'è questo oggetto, il KERS. Spieghiamo al nostro pubblico che cosa fa. È un utilizzo, diciamo, a supporto, diciamo, di quelle che sono le performance dei nostri motori, in cui un motore elettrico si aggiunge in determinati momenti alla potenza del motore termico. È chiaro che qui il travaso di competenze, di know-how, di tecnologia che viene dalla gestione sportiva è fondamentale e sarà travasato molto probabilmente anche sulle vetture GT nei prossimi anni. Grazie ragazzoni. Grazie a voi. Beh, lasciatemi fare una valutazione in chiusura. Si può certamente pensare che alla Ferrari possono permettersi un po' di tutto, anche di riempire lo stabilimento di alberi e dimezzare la CO2 rispetto agli obblighi, cosa che non tutti evidentemente possono permettersi. Però se c'è un compito a cui sono chiamate aziende come queste, i cui prodotti non sono certo indispensabili all'umanità, ebbene è proprio quello di offrire un modello che altri oggi magari non possono permettersi, ma che un giorno potrebbe diventare la regola. Come per esempio molte tecnologie nate in Formula 1, pensiamo all'uso dell'alluminio, pensiamo anche ai materiali leggeri che alla fine sono entrate nell'industria automobilistica e persino nelle utilitarie. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, parleremo di fusione fredda. Buona serata a tutti voi.